L'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'Altra Europa, come ogni settimana qui per raccontare altri punti di vista sul nostro cammino europeo, un programma in collaborazione con Euronet Plus, network di radio europee, euronetplus.eu, il portale che vi consiglio di visitare perché è un ottimo osservatorio di tutto ciò che accade in Europa. Le coordinate per trovarci invece sulle nostre piazze virtuali, chiocciola Euronet Plus R24 oppure chiocciola Federico Taddia sia su Facebook sia su Twitter. Queste le coordinate, ogni settimana un viaggio, oggi partiamo dal come si può comunicare l'Europa. Beaucoup de mots, très peu d'humour, moitié pinson, moitié vautour, tout dépend de l'heure et du jour, de l'édition et du tirage. Ils ont autant d'élan moral, ils ont de pages à leur journal, ça fait du bien, ça fait du mal, tout dépend de leur avantage. Ils vous habillent à leur façon, vous prêtent des déclarations, vous coupant de tout droit tronçon, ils vous tuent, puis ils vous encensent. Bisogna rendere più sexy l'Europa. Quante volte ho sentito questa frase negli incontri, nei convegni, dove si parla di comunicazione, questa Europa così fredda, così incomprensibile, così lontana. E tanta colpa viene data poi ai giornalisti, ai mezzi di comunicazione, che non riescono a tradurre nel linguaggio burocratese cittadini a volte quello che accade tra Bruxelles e Strasburgo. E quindi, se la colpa è dei giornalisti, ci sono giovani giornalisti che si mettono in gioco e dicono: a noi l'Europa piace, a noi desideriamo raccontarla, non ci sono spazi, e vabbè, allora questo spazio ce lo creiamo noi. Ed è nata così Rivista Europe, una rivista di affari europei inaugurata il 7 febbraio 2013, esattamente 21 anni dopo la firma del Trattato di Maastricht, un'esperienza giovane composta da una redazione giovane. Con noi Simone Belladonna, responsabile delle relazioni esterne della rivista. Ciao Simone, benvenuto all'Altra Europa. Ciao Federico, grazie di avermi invitato, ciao. Che Europa raccontate nel vostro portale? Quale obiettivo vi siete dato? Sì, noi diciamo che la rivista nasce un po' dall'insoddisfazione per quello che è il panorama italiano dal punto di vista dell'informazione sui temi europei. Da questo, come hai detto tu, appunto dal 7 febbraio, da questo punto di partenza è nato questo progetto, che è qualcosa di totalmente nuovo rispetto a quello che leggiamo tutti i giorni. Noi cerchiamo appunto di proporre un'informazione quotidiana, continua, puntuale e approfondita su quello che accade a Bruxelles e più in generale in tutta Europa, con un progetto all'avanguardia dal punto di vista digitale e diciamo, potrei dire che forniamo gratis, perché anche questo è importante, tutta l'Europa portata di click 7 giorni su 7, tutti i giorni. Quindi una rivista gratis composta da giornalisti, ma non solo, perché sono anche esperti del settore, tutti lavorate gratis anche per ora questo progetto? Sì, sì, sì. Le dimensioni del progetto per ora impongono questo tipo di organizzazione. È un progetto autofinanziato che quindi, come dicevo, si propone di inserirsi nelle lacune e anche nelle superficialità del mercato editoriale italiano dal punto di vista dei temi europei, e puntiamo tutto sulla competenza e sulla passione per i temi europei di chi scrive. I nostri redattori sono per lo più giovani, per lo più studenti e laureati di corsi di laurea di scienze internazionali, studi europei, giurisprudenza, economia, residenti in Italia, in tutta Italia, ma anche abbiamo due o tre corrispondenti da Bruxelles, da Varsavia, in giro per l'Europa. Quindi il nostro obiettivo è parlare con competenza di temi che sono propri per quello che abbiamo studiato, per quello che ci piace fare sostanzialmente. Simone, con Radio 24 cerchiamo di raccontare l'Europa quotidianamente nella sua attualità, sì, politica, certo, sociale ed economica, anche noi lo facciamo il sabato, e mi sento quindi chiamato in causa. In certo, cosa noi operatori dell'informazione pecchiamo? Perché non riusciamo a raccontarla questa Europa, secondo voi? Sì, ovviamente mi riferivo più al mercato della carta stampata e delle pubblicazioni online, per dirla tutta. Però sicuramente quello che manca è un po' la profondità dei temi trattati. Quando si parla di Europa non si può semplicemente parlare per slogan, diciamo, e soprattutto strumentalizzare quel che avviene a Bruxelles da un punto di vista, da una parte o dall'altra. Bisogna raccontare le cose, i fatti così come stanno, e magari anche proporre approfondimenti, ma con un certo tipo di competenza, non semplicemente appunto parlare per slogan su questo punto, perché poi dopo si fa un'informazione sbagliata e si strumentalizza, oppure semplicemente si dice è colpa dell'Europa, poi però non è esattamente così. E Simone, ma avete una redazione reale o è tutto un lavoro virtuale anche quello che fate voi come team? Allora, ovviamente dal punto di vista logistico non possiamo essere presenti tutti quanti, la redazione ai gruppi, quindi diciamo che il cuore pulsante è un gruppo Facebook sul quale ci si scambia idee, informazioni, e ogni settimana il direttore della rivista pubblica l'agenda settimanale, nella quale i redattori sono invitati a scegliere i temi che più sono congeniali. Diciamo che siamo anche divisi per aree tematiche. E i redattori scelgono quello di cui vogliono parlare e ovviamente sono liberi anche di scrivere i temi che sono più interessanti dal loro punto di vista. È possibile proporsi per collaborare? Certo, basta scrivere al mio indirizzo, vi rispondo io personalmente. L'indirizzo è relazioni esterne@rivistaeuropae.eu. E Simone, in vista del 2014, quindi delle elezioni europee, so che voi insomma approfondirete molto questa tematica, perché può essere un momento cruciale sia per l'Europa stessa, ma sia anche per quello che riguarda, sì, credo, la comunicazione e l'informazione. Avete progetti, sì, in atto? Sì, allora è uno dei nostri progetti sicuramente. Per quanto riguarda l'avvicinamento alle elezioni europee di maggio, noi proporremo appunto delle pubblicazioni ad hoc sul tema, del follow up delle elezioni appunto. Poi dopo abbiamo anche progetti proprio più sul campo, perché stiamo collaborando anche con Europe Direct di Torino, andremo nelle scuole a parlare di Europa, delle elezioni. Siamo stati questo weekend siamo stati a Novara per un convegno sulle elezioni europee dei federalisti, quindi da questo punto di vista seguiteci, che noi, se cercate informazioni sulle elezioni europee, noi cercheremo di essere il punto di riferimento da questo punto di vista. Ho visto che c'è uno speciale anche Eurovignette, di cosa si tratta? Sì, abbiamo un vignettista molto bravo che è un nostro ex compagno dell'università, di studi europei. Lui propone ogni settimana una vignetta nuova su un tema caldo dell'Unione Europea, e c'è tutta una sezione, l'archivio, da praticamente ogni settimana da febbraio ad oggi abbiamo tutte le vignette che ci propone questo ragazzo. Perfetto. Sono molto interessanti. Oltre a queste, quindi abbiamo quindi informazione, eurovignette, approfondimenti e anche, diciamo, anche riflessione, perché proponiamo editoriali di commento su quello che accade in Europa. E abbiamo anche fatto delle interviste molto interessanti, tra cui Verhofstadt, Monti, Rodotà e anche Jean-Paul Fitoussi, che sono molto interessanti e fanno riflettere. www.rivistaeuropae.eu, sì, questo è l'indirizzo per conoscervi, per seguire il vostro lavoro. Puntuale, sì, approfondito e appassionato. La passione, sì, traspare, credo che sia il valore aggiunto, sì, sicuramente del vostro portale. Sì. Diciamo che più di quello che posso dire io, il nostro sito, il nostro portale è proprio il nostro biglietto da visita. Anche questa è l'altra Europa. Grazie davvero Simone, ciao, complimenti a te, grazie, e a tutto il tuo team. Grazie mille, ciao Federico, ciao. Grazie. Adesso le informazioni per chi sta viaggiando, prima un Europost-it, poi ancora qua, con l'altra Europa. Europost-it. Premio Carlo Magno 2014, siete pronti? Avete tra i 16 e i 30 anni e avete un progetto che aiuti a promuovere l'identità e la cittadinanza europea e che sia pensato per favorire il dialogo e la comprensione reciproca? Allora potete partecipare alla 7ª edizione del Premio Carlo Magno della Gioventù, il premio nato proprio per ricompensare queste iniziative. I premi sono consistenti. Il primo classificato si aggiudica 5.000 euro, il secondo 3.000 e il terzo 2.000. I rappresentanti dei 28 progetti nazionali selezionati saranno invitati inoltre per un viaggio di 4 giorni ad Aquisgrana in Germania. Nel 2013 ha vinto il premio il progetto spagnolo Europe on Track, una piattaforma in grado di mettere in contatto i giovani per condividere idee e visioni sul futuro della costruzione europea. Ne avete uno simile o migliore? Mandatelo a charlemagneyouthprize.eu. L'altra Europa. È una filastrocca tradizionale greca che utilizziamo per introdurre il prossimo argomento. Lo spunto da un articolo molto ben fatto della collega Gilda Ligunis su Osservatorio Balcani e Caucaso. Abbiamo seguito tante volte, stiamo seguendo in questi anni la Grecia, perché i risvolti della crisi non sono solo i problemi del portafoglio, ma sono tutte le ricadute poi nella quotidianità. Ricadute a volte anche inattese, perché magari vanno a colpire piccole fasce, piccole nicchie di popolazioni. In questo caso parliamo di ragazzi e ragazze disabili, bambini che hanno il diritto ad andare a scuola, hanno il diritto allo studio, e invece, nonostante i richiami continui dell'Unione Europea, che ha una forte strategia per l'integrazione scolastica dei disabili con un piano decennale che è ben illustrato sul sito europa.eu, nonostante tutti questi richiami, in Grecia permangono scuole speciali solo per bambini disabili, e la crisi tra l'altro sta tagliando queste scuole, quindi bambini costretti tra l'altro ad andare appunto in scuole dedicate solo a loro, quindi tutto ciò che non è integrazione per l'appunto, e a causa crisi queste scuole stanno anche chiudendo. Per capire bene quella che è la situazione abbiamo con noi proprio Gilda Ligunis. Ciao Gilda, ben ritrovata qui all'Altra Europa. Ciao, buongiorno a tutti. Tu hai fatto un'inchiesta, qual è il quadro della situazione che io ho sintetizzato leggendo il tuo articolo appunto? Sì, che in Grecia, mentre appunto tu ricordavi che nell'Unione Europea c'è un forte richiamo all'inclusione scolastica, cioè che i bambini che soffrono di sindrome di Down piuttosto che autistici o con varie forme di bisogni educativi speciali vadano nelle scuole con gli altri coetanei. Tra l'altro l'Italia è stato forse uno dei primi paesi al mondo, dal 77, che ha chiuso le scuole speciali, ha fatto una volta tanto facciamo da per strada, no? La Grecia è ancora alle scuole speciali, non ci sono neanche esperimenti, programmi di scuole miste, così. Ce ne sono circa 800 in tutta la Grecia. Il problema è che in questo momento di forte crisi, negli ultimi 4 anni, comunque la scuola in Grecia è stata taglieggiata. Gli stipendi degli insegnanti sono stati tagliati del 40%, quindi se un insegnante prendeva circa 1.500 euro dopo 15 anni di carriera ne prende 900, ma quelli che hanno sofferto di più sono gli insegnanti, quelli che noi in Italia chiamiamo gli insegnanti di sostegno, quelli specializzati nella didattica speciale. Mm-hmm. Allora, in Grecia quest'anno non è stato assunto neppure uno con i fondi statali. Quelli che sono stati assunti grazie a un fondo europeo, e quindi di queste 800 scuole quasi tutte in realtà hanno aperto i battenti, cioè la campanella è suonata. Il problema è vero in queste scuole speciali è che mancano assolutamente quello che è la risorsa specifica, preziosa, quella che manda avanti, che fa funzionare le scuole speciali, i logopedisti, gli psicologi. Operatori specializzati nel lavorare. Sì, l'insegnante di sostegno che è specializzato nel tenere la classe, far insegnare a scrivere, far di conto, ma è diverso ovviamente insegnare a scrivere a un bambino ipovedente che ha bisogno di qualcuno vicino. Di qualcuno vicino, anche di attrezzature specifiche, che anche queste mancano a causa della crisi. Però Gilda, scusa una domanda, perché è comprensibile nel suo essere incomprensibile che tutto ciò accada in tempo di crisi, però anche prima della crisi, come mai questi ghetti, come mai non c'è stato questo scatto culturale in Grecia? Ma guarda, innanzitutto la Grecia è in cattiva compagnia, nel senso che la Germania, locomotiva d'Europa, fino a pochi anni fa aveva ancora le scuole speciali, anzi per molti anni ne ha fatto una bandiera. Se andavi in Germania ed eri figlio di immigrato italiano, avevi la scuola speciale per immigrati italiani. Noi non parliamo solo di disabili, il bambino con sindrome di Down aveva la scuola speciale per sindrome di Down, tutto molto ordinato, tutto molto teutonico. La stessa Germania ha avviato questi progetti di inclusione, cioè di mettere invece i bambini tutti insieme, insomma. Diciamo, la parola disabili non è sempre adatta, si chiama bambini con bisogni educativi speciali con i loro coetanei, tra virgolette, normali, no? Anche la Germania l'ha avviato da non moltissimo tempo. Diciamo che la Grecia è il fanalino di coda. E quindi, questo è stato, e la crisi appunto adesso ha fatto esplodere questo che è un bisogno. Ci sono anche delle proteste perché i genitori hanno deciso di scendere anche in piazza per far sentire la loro voce. Osservatorio Balcani Caucaso, balcanicaucaso.org è il sito, ma abbiamo già linkato sulle nostre pagine Facebook e Twitter il tuo articolo per approfondire l'argomento. Grazie davvero a Gilda Ligunis. Ciao Gilda, alla prossima, buon lavoro. Grazie a tutti voi. Ciao. Europost-it. UE per i giovani, incontri di formazione e networking. La rappresentanza in Italia della Commissione europea e l'Ufficio di informazione in Italia del Parlamento europeo organizzano per la prima volta a Spazio Europa a Roma in via 4 novembre 149 incontri formativi e di networking per giovani moltiplicatori, cioè comunicatori, progettisti, imprenditori e amministratori pubblici locali. Lo scopo è informare e orientare i giovani verso le fonti di informazione dell'Unione Europea e fornire un quadro generale dei nuovi programmi per il periodo 2014-2020 a favore dell'apprendimento e della mobilità, della formazione, dell'occupazione e dell'imprenditoria giovanile, nonché dei diritti e della cittadinanza. I quattro incontri organizzati con il supporto tecnico dell'Associazione AIM, Agenzia Intercultura e Mobilità, si svolgeranno tra il 21 novembre e il 22 gennaio. Per ogni incontro ci saranno sessioni informative con panel di relatori esperti, rappresentanti delle istituzioni, workshop e momenti informativi. La partecipazione è gratuita, ma è necessario prenotarsi. Trovate informazioni e possibilità di iscrizione sul sito ueperigiovani.eu. Mes origines sont en panique. J'ai fouillé dans toutes les poches du monde, y'a que du trafic. Pas facile, mon cœur a suivi sa logique. Il faut se mélanger dans la mixité, y'a rien de tragique. Pas facile, dans la vie y'a tout de pratique. Moi j'dis que rien n'est magique et puis le racisme fatigue. Pas facile, de freiner à fleurir mes registres. Même si t'es enfermé, que tu te sens seul, dis-toi que t'existes. C'est le récit de la brise et de la brise. D'une société aux prises, d'une guerre en guise de crise synonyme. Rapper francese Sefiu in questo inno contro il razzismo, perché questa settimana è stata la settimana in cui sono stati presentati le tendenze, sono stati presentati i dati della Commissione Europea contro il razzismo e l'intolleranza, l'ECRI, del Consiglio d'Europa. Ogni anno pubblica un rapporto, una fotografia per quanto riguarda appunto il razzismo e la xenofobia all'interno del continente. Con noi c'è Stefano Valenti del segretariato dell'ECRI. Buongiorno Stefano, ben ritrovato qui all'Altra Europa. Buongiorno e ben ritrovati anche voi. Questa fotografia annuale è una fotografia dove c'è sempre un pizzico di speranza, però si vanno poi a leggere quelle che sono le tendenze e la preoccupazione lascia lo spazio alla speranza, però questa è la realtà e la realtà va conosciuta, approfondita per cercare di capire come rispondere a quello che sta accadendo. Quali sono i dati più importanti del rapporto di quest'anno? Sì, dunque, questo è un rapporto che traccia un po' le tendenze generali per quanto riguarda poi i fenomeni paese per paese. Ci sono i nostri rapporti, ogni anno pubblichiamo circa una decina di rapporti fino a coprire nell'arco di 4 anni i 47 paesi del Consiglio d'Europa. Dunque quest'anno pubblichiamo un rapporto che riguarda l'anno scorso, e nell'anno scorso la cosa più evidente è che continua a esserci questa crisi economica che peggiora gli animi della maggioranza, che cercano ancora un capro espiatorio nei confronti degli migranti, delle minoranze religiose, soprattutto i musulmani, e in particolare la popolazione dei Rom. Ecco, questa quindi la tendenza è un acuirsi della frizione tra una maggioranza impaurita e preoccupata della crisi economica e dei gruppi gruppi vulnerabili che ho appena nominato, che diventano sempre più vulnerabili. Mm-hmm. Questo è un effetto crisi, nel senso che è una conseguenza in parte diretta dalla crisi. Ci sono altri problemi invece generali di intolleranza, di comportamenti intolleranti in crescita? Sì, beh, forse legato a questo è il crescente successo dei partiti più che di estrema destra, direi dei partiti xenofobi, e questo anche avvelena il dibattito politico anche dei partiti maggiori, in inglese direbbe dei mainstream political party. Questi partiti che utilizzano il vocabolario dei partiti xenofobi per ottenere un po' più di voti o molti più voti alle varie tornate elettorali. Ma poi, quindi il razzismo porta voti in questo momento? Sì, il razzismo porta voti, e naturalmente vedremo alle prossime elezioni del Parlamento europeo che sicuramente i partiti anti-europei potrebbero guadagnare un'importante fetta dei 760 e più seggi al Parlamento europeo. Poi come situazione allarmante c'è anche l'incitazione all'odio, il corso dell'odio su internet, dove dietro l'anonimato dell'internet ci si sbizzarrisce nelle varie invettive appunto contro questi gruppi vulnerabili, e questo è un altro, diciamo, è un fattore preoccupante, anche perché va a prendere soprattutto le fasce più giovani. E, Stefano, oltre a fotografare la situazione, avete anche proposte concrete tra i vostri compiti? Certo. Cerchiamo di essere più concreti, perché un po' l'atteggiamento degli stati, dei governi nei confronti di questi organi di monitoraggio, per cui facciamo parte anche noi, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che è diventata abbastanza famosa anche in Italia per eventi politici recenti, sì. C'è un po' un'intolleranza a recepire i campanelli d'allarme. Dei problemi e vogliono anche delle soluzioni. Quindi giustamente noi cerchiamo di dare qualche suggerimento. Per esempio, intanto è importante avere delle statistiche e dei dati che diano la dimensione del problema, perché per esempio per quanto riguarda l'immigrazione si parla sempre in aspetto negativo, ma sappiamo che per esempio anche in Italia dei grandi contribuenti all'INPS e dei grandi contribuenti al forza welfare lavoro. Uh-huh. Sono gli immigranti regolari, insomma. Certo. Quindi questo è un apporto. Poi per esempio cerchiamo anche di dire che per combattere il discorso all'odio, l'incitazione all'odio, non basta solo la risposta legale, quindi del giudiziario, la condanna criminale, ma va anche fatto un lavoro di prevenzione, come lei diceva. Le giovani fasce subiscono e accettano il discorso razzista come qualcosa di normale, e anche quei pochi che vorrebbero un po' condannarlo non sanno a chi rivolgersi, quindi c'è bisogno di usare gli stessi sistemi di avvicinamento, di facilità online, anche per denunciare questi fenomeni. Certo, quindi in chiave positiva, in chiave costruttiva. E Valenti, esatto. Grazie davvero. Ricordiamo il sito, che è coe.int/ECRI, che è il sito del segretariato della Commissione Europea contro il razzismo e l'intolleranza, dove potete trovare anche tutti i dati relativi al rapporto. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi, grazie, arrivederci. L'altra Europa. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è sempre l'altra Europa, Euronet Plus R24, queste le coordinate per trovarci sia su Twitter che su Facebook, oppure con le mie personali, @ Federico Taddia. Beh, tante volte, no, quando parliamo dei nostri argomenti e poi ci sono ascoltatori che ci scrivono e ci chiedono: ma come fate a trovare queste notizie? Ci sono ci sono portali. Noi tutto ciò ovviamente lo riversiamo sui nostri siti, sul nostro sito radio24.it. www.lautraeuropa.it. Parlavamo prima di comunicazione, di giornalismo, beh, ci sono storie che le trovi veramente anche per caso. E per esempio arrivi nel tuo piccolo comune in provincia di Bologna, una sera prima di addormentarti guardi cosa c'è nella posta e sfogli così anche distrattamente quello che è il bollettino di comunicazioni del comune e leggi che in questo caso Pieve di Cento è il primo comune italiano ad ospitare un mediatore europeo. Notizia che non sapevo, benché sia il mio comune, e soprattutto non sapevo neppure cosa fosse il mediatore europeo, che mea culpa per chi fa il mio mestiere, insomma dovremmo essere informati, però impariamo anche noi delle cose leggendo e queste cose poi cerchiamo di comunicarle anche a voi. E quindi abbiamo invitato Alberico Colassante, che è il coordinatore nazionale Unione Europea dei Mediatori. Buongiorno Alberico. Buongiorno a tutti e buongiorno ai radioascoltatori. Che cos'è il mediatore europeo? Proprio domanda secca. La domanda è secchissima, ma bisogna partire innanzitutto da che cos'è la mediazione in generale. Cioè la mediazione è un procedimento, diciamo, alternativo di risoluzione dei conflitti che offre ai soggetti che vengono coinvolti, in questo caso i cittadini, come parlava lei benissimo di quelli che sono stati informati nel comune di Pieve, la possibilità, diciamo, di risolvere il loro problema, la loro controversia in maniera completamente autonoma, anche se con poi con la riforma ultima fatta col decreto del fare Letta, sì. È stato introdotto l'obbligatorietà anche dell'assistenza dell'avvocato. Questo è un po' il quadro d'insieme e sintetico di che cos'è la mediazione intesa in senso generico come diciamo, una novità definizione nel nostro generale, ecco, sì, diciamo perfetto. Così. Poi per quel che riguarda invece la figura del mediatore, il mediatore è una persona invece abilitata, quindi è conseguito un titolo, un'abilitazione a svolgere questo ruolo di mediatore all'interno del contesto del procedimento. Quindi bisogna identificare la persona che non sarà un giudice, come lo è nel caso il cittadino si rivolgesse al tribunale, ma è un facilitatore, cioè colui che in qualche modo aiuterà le parti a trovare un punto d'incontro del loro problema. Ecco, quindi la cultura del dialogo, la cultura della mediazione intesa in questo senso. Ma in tutto questo l'Europa cosa c'entra? Nel senso che è una figura europea? Allora, innanzitutto la figura del mediatore in senso l'Unione Europea dei Mediatori nasce innanzitutto come un network che si è costituito presso la Camera dei Deputati il 18 dicembre del 2012, quindi è nato da pochissimo tempo e raggruppa le più importanti associazioni italo-franco-svizzere di promozione per la diffusione della cultura della mediazione e della pacificazione, diciamo così. Quindi è un trattato che istituisce un legame europeo dove tutti possono aderire per anche associazioni rappresentative della mediazione, degli stati ovviamente europei e di tutti gli enti comunali, cioè l'Unione Europea dei Mediatori cerca di portare presso le istituzioni locali, sia italiane sia europee, questa figura dell'ambasciatore, che sarebbe un mediatore, l'ambasciatore dell'Unione Europea dei Mediatori, che dovrà offrire il suo servizio gratuito ovviamente di assistenza al cittadino. Questo è il nostro progetto di portare, diciamo, sul territorio questa figura importantissima. Ci tengo a precisare, perché si è parlato tanto del primo comune d'Italia che ha il servizio, diciamo, lo sportello informativo. Sì. In realtà già da tempo ci sono molti comuni in Italia, diversi, non molti, comuni in Italia che hanno uno sportello di conciliazione, ma Pieve di Cento è stato il primo ad aderire a questo nostro progetto europeo, anche perché la mediazione noi la intendiamo come, diciamo, mediazione in senso generale, perché le mediazioni si possono svolgere anche attraverso rapporti europei, cioè tra aziende, tra cittadini, certo. Il contenzioso può nascere anche a livello tra un francese e un italiano, per cui può essere risolto non in un'aula di un tribunale, ma benissimo attraverso la mediazione. Per chi volesse informazioni c'è un sito di riferimento? Attualmente abbiamo il nostro sito, che è il sito ufficiale del Forum Nazionale dei Mediatori, che è l'associazione che aderisce al Trattato Istitutivo dell'Unione Europea dei Mediatori, che è www.forumnazionaledeimediatori.it. mediatori.it. Questo è il sito al quale noi facciamo riferimento per il momento, per cui il cittadino può andare nel sito e trovare tutti i riferimenti necessari. Proprio nel sito saranno indicati, nella sezione dell'Unione Europea dei Mediatori, i comuni che hanno aderito al nostro progetto. Ottimo. Quindi ci sarà l'elenco, e quindi anche il cittadino che vorrà essere informato non solo dal comune, ma c'è un sito dedicato proprio ai comuni di tutta Italia che aderiranno al nostro progetto. Abbiamo già pubblicato il link sulla nostra pagina Facebook e sul nostro Twitter. Grazie davvero Colasanti, buon lavoro per questo nuovo progetto. Salve, buon sabato. Europost-it. Trovare lavoro in Europa con una guida. Cercate un lavoro in Europa e non sapete da che parte iniziare? Scaricatevi una guida. È pronta la guida 2013 Trovare un lavoro in Europa, realizzata dalla Commissione Europea e dal Direttorato Generale per l'Impiego, Affari Sociali e Inclusione. La guida spiega quali sono i passi necessari per cercare lavoro fuori dal proprio paese di origine. Si può scaricare gratuitamente dalla libreria online europea EU Bookshop, seguendo il link bookshop.europa.eu. Questi sono i nostri Euro Post-it, questa è l'Europa delle opportunità, tutti i link sul nostro sito e sulle nostre piazze virtuali. E a proposito dell'Europa delle opportunità, ecco l'Europa che si presenta, li abbiamo conosciuti, li abbiamo citati tante volte, e sono gli sportelli Europe Direct, che sono proprio sportelli operativi dove ci sono persone in carne ed ossa che rappresentano l'Europa, che spiegano, che dicono, che danno informazioni concrete. E gli Europe Direct sono al centro di una sorta di tour, perché l'Europa sta girando per l'Italia, regione, per presentarsi, per raccontarsi, per dire ai cittadini: guardate che l'Europa è anche questo. E c'è stata l'Europa che è arrivata in Toscana, questa settimana l'Europa è arrivata in Sicilia, prossime tappe Assisi, Gioiosa Ionica, Pescara, Urbino, insomma un tour che vogliamo conoscere meglio per capire il perché, di cosa si tratta, e lo chiediamo ad Evelina Jelenkowska, capo del settore stampa e media della rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Ciao Evelina, ben ritrovata. Buongiorno. C'è l'Europa che sta girando l'Italia regione per regione, qual è l'obiettivo di questo innovativo pellegrinaggio? Abbiamo un duplice obiettivo, diciamo. Innanzitutto, come hai già detto, vogliamo far conoscere e sensibilizzare la gente che l'Europa non è distante. Siamo presenti attraverso gli Europe Direct, che sono gli sportelli di primo contatto che conoscete, ma siamo presenti anche attraverso delle reti specializzate, e questo è un obiettivo. Quindi stiamo invitando i cittadini ad andare a informarsi delle opportunità concrete che l'Europa gli offre. Dall'altro lato però vogliamo anche lanciare un dibattito, perché l'Italia non è più europeista per definizione, certo. Abbiamo visto, quindi la gente ha diritto di dire che Europa vuole avere, e noi vogliamo ascoltarlo, quindi vogliamo che di quelle scelte che sono state fatte in fretta e furia perché c'era la crisi e quindi abbiamo fatto certi passi in avanti dal punto di vista della forma dell'Europa, adesso vogliamo consultarlo con i cittadini. Mm-hmm. Questa è l'Europa che gli piace, certo. O magari gli piace diversa, come è che vorrebbero mm-hmm. che fosse. E quindi lo chiedete direttamente a loro. E c.europa.eu, come sempre, il sito di riferimento per conoscere anche le date e i dettagli delle prossime tappe. E in più, dicevamo, c'è la possibilità di incontrare l'Europa in carne ed ossa, perché ci sono operatori preparati che danno informazioni, però avete lanciato anche questa un'app e un portale internet, Europa intorno a me. Di cosa si tratta? Questo è un portale che deve aiutare i cittadini a localizzare quei punti che sono più pertinenti, che possono dargli le informazioni più giuste e più utili che cercano, perché ormai oltre ai 48 punti Europe Direct localizzati in tutta l'Italia, noi abbiamo, come ho già detto, delle reti specializzate, le reti che offrono servizi di consulenza alle piccole e medie imprese, ai giovani, quindi per capire chi è quel e dove si trova soprattutto. C'è questa applicazione che abbiamo creato legandola al sito delle reti, tutte le reti che raccoglie, dove uno può scaricarlo gratuitamente dal sito e trovare o i punti più vicini o i punti appunto per la tematica che interessa. Mm-hmm. Per ora è sempre un progetto, diciamo, in costruzione, non ci sono ancora tutti i punti che esistono, però sono già più di 500 punti sul territorio italiano e più di 4.000 consulenti disponibili ogni giorno a dare la loro mano, informazioni che possono essere utili e che possono anche magari formare e creare i progetti di vita. Certo. E Evelina, sei fresca di ritorno dalla Sicilia, dove avete fatto questa tappa. La Sicilia è anche un po' il luogo più lontano dal cuore d'Europa, no? Sì. Per quello che riguarda l'Italia. Sì. Al di là dell'aspetto formale dell'incontro, l'aspetto informale qual è stato? Si riesce a comunicare questa Europa? Si riesce a far capire le mille opportunità che ci sono? Sì, siamo stati, devo dire, allora abbiamo scelto perché la Sicilia ha 4 punti Europe Direct, noi lanciamo i punti, diciamo, per regione, e abbiamo scelto di visitare quello di Enna. Sì. Per arrivare proprio nel cuore della Sicilia, e anche quella Sicilia forse più difficilmente raggiungibile, e devo dire che siamo rimasti molto sorpresi, a parte fatto dall'interesse, c'erano tanti giovani, il punto Europe Direct si trova all'università, quindi anche logico. Uh-huh. Però abbiamo scoperto, per esempio, a questa occasione un progetto che i giovani si sono, diciamo, presentati per un bando europeo. Sì. E adesso un'associazione di studenti dell'Università di Enna sta lanciando i dibattiti, il cosiddetto dialogo strutturato, sul territorio della Sicilia in tema dell'occupazione, che è una bellissima iniziativa. Si sono presentati loro, hanno vinto un bando di concorso, hanno avuto finanziamento dalla Commissione Europea, grazie al quale stanno portando avanti la loro attività, informandosi e magari creando anche le basi per le prossime politiche dell'occupazione dei giovani, consigliando dalle quali potrebbero prendere punti, diciamo, i politici, certo, del futuro. Avere ricadute programmatiche e ricadute concrete. ec.europa.eu oppure su Twitter @EuropaInItalia per essere informati su quello che la Commissione Europea fa in Italia concretamente, direttamente. Grazie Evelina, ciao e buon sabato. Grazie, ciao, buon sabato. Un Europost-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'altra Europa. Europost-it. Cercavamo la pace per ricordare la solidarietà nei Balcani. La guerra nei Balcani negli anni 90 ha mobilitato centinaia di migliaia di persone attraverso l'Europa, che si sono impegnate in prima persona per manifestare e sostenere la necessità dell'integrazione europea dei paesi del sud-est Europa, ma anche per portare aiuti e offrire ospitalità ai profughi. Anche gli italiani hanno fatto una grossa parte e per questo motivo il portale Osservatorio Balcani e Caucaso ha lanciato Cercavamo la pace, un progetto di ricerca volto proprio a ricostruire l'esperienza del movimento di solidarietà italiano con i Balcani. L'idea è di creare un vero e proprio crowdsourcing di fotografie, video, diari, volantini, manifesti e documenti delle associazioni coinvolte relativi al periodo 1990-2000. Hai partecipato a quell'esperienza? Hai materiale dell'epoca che ritieni interessante? Non lasciare che vada perduto. Condividilo sul portale del progetto cercavamolapace.org. Potrà servire come materiale d'analisi per la ricerca, dare stimolo ad altri studi in futuro, ispirare lavori divulgativi come videoclip o mostre e contribuire alla creazione di una collezione online disponibile al pubblico sul portale di Osservatorio Balcani e Caucaso. L'altra Europa. Wir sind Halloween, wir sind Halloween, Kürbis kreischt um die Welt herum. Wir sind Halloween. Oggi è il 2 novembre, giorno dei morti, e volevamo toccare anche noi l'argomento, farlo come sempre, ovviamente, in chiave europea. Abbiamo scoperto che esiste l'ASCE, che è l'Associazione dei Cimiteri Storico-Monumentali in Europa. È un'associazione costituita a Bologna nel novembre 2001, una rete europea composta da realtà pubbliche e private che si occupano dei cimiteri come beni culturali, valorizzandone l'importanza storica e artistica. C'è anche proprio un itinerario culturale legato a questi cimiteri storici. Con noi c'è Mauro Felicori, ex presidente dell'ASCE, del Comitato Scientifico degli Itinerari Culturali Europei. Ciao Mauro, benvenuto all'Altra Europa. Ciao, benvenuti. Allora, io ho fatto la descrizione formale, diciamo, dell'ASCE. Di fatto di cosa si tratta? Ma diciamo che da 10 anni è corso un'opera radicale, impegnata, di rivalutazione dei cimiteri come beni culturali. Purtroppo, per ignoranza, per superstizione, i cimiteri non hanno mai avuto quel riconoscimento come monumenti fondamentali delle città che meritano. E invece non si può fare una storia decorosa della scultura degli ultimi 2 secoli senza entrare nei cimiteri. Molti cimiteri fanno parte della storia dell'architettura. I cimiteri sono il microcosmo, il riassunto della storia delle città, dunque sono un bene culturale di primo ordine. L'associazione è nata per togliere questi beni culturali dall'oblio e spesso anche dalla cattiva manutenzione, e farli diventare quello che sono, monumenti di primaria importanza. E quindi c'è stata una lunga opera di sensibilizzazione culturale. Anche tanti ricercatori che prima lavoravano in modo isolato hanno cominciato a coordinarsi. E questo fa l'associazione. E perché esiste comunque un turismo di interessati di architettura, di storia legata ai cimiteri, quindi proprio i cimiteri che possono essere tappe di itinerari? Basti considerare questo: il cimitero di Stoccolma, sì, il cimitero nel bosco, è l'unico cimitero del mondo che sta nella lista del patrimonio dell'UNESCO. È un capolavoro di Östlund, che è il più celebre architetto svedese. E a un certo punto ci furono lamentele dei dolenti perché il numero di architetti, di studenti di architettura che visitavano questo cimitero era diventato dominante rispetto alla funzione propria del cimitero. Naturalmente questo chiamiamolo turismo cimiteriale si può sviluppare molto di più, siamo ancora molto lontani dai possibili standard a cui si può arrivare. Naturalmente deve essere un turismo rispettoso, conscio della funzione dei luoghi, però è un turismo di cultura a tutti gli effetti. Ecco, basti che pensiamo solo in Italia a quello che è il cimitero di Staglieno, il Monumentale di Milano, il Verano e la Cattolico di Roma, direi la Certosa di Bologna, ma diciamo questi sono i più celebrati, ma pensiamo che il cimitero di Verona è molto interessante, i cimiteri di Livorno sono molto interessanti. Mauro, invece a livello europeo quanti sono i cimiteri che appartengono a questa rete attualmente, più o meno? Ormai sono quasi 200, direi che la rete adesso veramente rappresenta in modo pieno questa realtà. Finalmente alcuni anni fa il Consiglio d'Europa ha deciso, questo è stato un riconoscimento molto importante, ha deciso di considerare la rete dei cimiteri come uno dei percorsi culturali riconosciuti dal Consiglio d'Europa. Quindi i cimiteri sono entrati, diciamo, nella serie A dei beni culturali con questo riconoscimento. Noi sappiamo che il Consiglio d'Europa è un organismo prevalentemente culturale, che ha nella cultura il suo elemento topico. Ci hai citato quello di Stoccolma, quali sono altri cimiteri europei secondo te degni di una visita? Io ne avrò visitati un centinaio. Diciamo certamente in Inghilterra i 7 cimiteri di Londra, che gli inglesi chiamano Magnificent Seven, i magnifici 7, sì, tra cui quello più famoso è quello di Highgate, per la tomba di Marx e anche perché è effettivamente un cimitero formidabile. In Francia naturalmente a Parigi il Père Lachaise, che è un po' il Pantheon di tutta la storia culturale della Francia, e anche qui con questi ricordi di Jim Morrison, e ancora oggi meta di pellegrinaggi di giovani da tutto il mondo. D'altra parte, proprio il professor Sborgi, grande studioso di Staglieno, che è mancato proprio stamattina, ha ricordato come i Joy Division furono fondamentali nella, e quindi anche un certo punk, una certa musica dark dei giovani sono stati fondamentali nella rivalutazione dei cimiteri europei. Ma insomma, potrei andare avanti senza fermarmi. A Napoli ci sono dei cimiteri formidabili. A Napoli c'è forse l'unico cimitero non romantico del mondo, cioè? Almeno del mondo occidentale, si chiama è poco conosciuto, si chiama delle 366 fosse, sì. Ed è proprio un cimitero che definirei materialistico, illuministico. C'è una fossa per ogni giorno dell'anno, inclusi bisestili, di cui 366, sì. E ogni fossa è un giorno. Ogni giorno veniva aperta la fossa, venivano letteralmente buttati tutti i morti di quel giorno, poi veniva chiusa la lapide e si passava al giorno successivo, poi a finito l'anno si ricominciava. Mauro, ma adesso ti faccio una domanda personale, scusa, ma da dove nasce questo interesse? Ma diciamo, era da anni che io sono un dirigente culturale del comune, era da anni che dicevo un po' a tutti: guardate che state trascurando la Certosa, state trascurando. Poi l'occasione, la Certosa di Bologna, l'occasione mi ha dato modo di occuparmi della Certosa, e quindi ho pensato, come faccio sempre, dico, beh, vediamo cosa c'è in Europa, così un po' copiamo, un po' traduciamo. E mi sono accorto con sorpresa che non c'era nessuna associazione che si occupasse di cimiteri dal lato culturale. Ci sono tante associazioni funzionali, diciamo. Ovviamente. Quindi non c'era un luogo in cui scambiarsi ricerca, scambiarsi esperienze. E siccome non c'era, l'ho creato. Insomma, l'Europa può partire anche dal cimitero, perché è cultura, quindi ci piace portare punti di vista diversi, particolari e magari ignorati, e insomma il cimitero rappresenta una di queste leve. Ah, certamente, guardi, io ho avuto l'occasione, la fortuna, grazie a questa associazione, di visitare i cimiteri delle nazioni baltiche, Lituania, Lettonia, Estonia, da poco indipendenti dall'URSS. E passeggiando per questi cimiteri si ripercorre la storia. Ripercorre la storia europea con le guerre, c'è la parte polacca, la parte russa, la parte tedesca. Diciamo, sono libri di storia che si possono apprestare in un modo nuovo. Mauro, c'è un sito internet di riferimento? Sì, direi www.significantcemeteries.org. Perfetto, mettiamo subito il link nelle nostre piazze virtuali su Facebook e su Twitter. Naturalmente anche www.certosadibologna.it. Esatto, che è più semplice, e da lì appunto è la porta d'ingresso. Il mio piccolo orgoglio. Grazie davvero Mauro, ciao, buon sabato. Grazie. E finisce qui questa puntata, un grazie a tutta la squadra dell'Altra Europa, Margherita Aina che con me ha scritto la puntata, Gianmarco Ferronato oggi alla parte tecnica, grazie a voi per essere stati in nostra compagnia, vi aspettiamo su Facebook e su Twitter, sul nostro sito radio24.it e soprattutto sabato prossimo alle 10 con l'Altra Europa. Ancora ciao da Federico Taddia. L'Altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.